Con Gloria Sapio, direttrice artistica di Sguardi Oltre, rassegna multidisciplinare per la cura dell'anima a Roma, Sette Camini, dal 9 al 15 settembre 2019. Gloria, ben trovata. Ciao, salve a tutti. Raccontiamo cos'è Sguardi Oltre. Allora, Guardi Oltre ha nel suo sottotitolo dice tutto, cioè è una rassegna per la cura dell'anima multidisciplinare. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo scelto di andare in luoghi particolari, in questo caso siamo a Banco Insieme, nel quartiere, nella borgata storica di Sette Camini, dove questo Parco Insieme normalmente fa gardening con persone che hanno problemi di disagio psichico o mentale, esperienza di disagio psichico o mentale. Gardening è una, ovviamente una forma terapeutica. Questa pratica viene fatta da una cooperativa che collabora con noi da tanti anni e quindi noi abbiamo scelto questo luogo per fare spettacoli multidisciplinari che parlano un po' appunto della congiunzione tra queste due realtà, ecco, la realtà di un disagio e la realtà anche di un disagio dato dalla borgata, dalla vita periferica, dal luogo dove succede poco, ecco, rispetto alle programmazioni culturali. Come saranno articolate queste giornate? Allora, intanto noi facciamo come sempre dei laboratori. Questi laboratori sono inclusivi e portano la gente all'interno della rassegna, cioè sono studiati in modo che incrocino le varie attività della rassegna. In questo modo il quartiere, i cittadini del quartiere diventano protagonisti di questo momento. E quindi c'è prima una parte appunto laboratoriale che inizia martedì 10, la manifestazione per noi inizia il 9 di settembre in realtà con una artista in residenza che è quest'anno Giacomo Sette, che attraverso un suo percorso dentro al quartiere scriverà una drammaturgia che in qualche maniera riguarda Sette Camini e i suoi abitanti. Ha già cominciato comunque a collaborare con delle signore del quartiere che seguono da anni e che gli daranno appunto degli spunti. Poi ci sono anche altre testimonianze che abbiamo raccolto negli anni precedenti, immagini, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo sarà materiale per Giacomo per la sua residenza. Poi il 10 invece iniziamo a fare noi, io e Maurizio Repetto, dei laboratori di diciamo pratica scenica per persone non professioniste, nella quale cercheremo appunto di coinvolgere gli abitanti del quartiere e questi due laboratori, cioè la residenza e il laboratorio, si incrociano e poi saranno dentro invece al momento spettacolare, vero e proprio. C'è un altro laboratorio, un laboratorio per invece bambini e adulti, che è tenuto da Opera Prima. E questo laboratorio anche incrocia poi il momento clou domenica con una restituzione fatta appunto con gli adulti e i bambini che hanno frequentato il laboratorio, una forma spettacolo diciamo molto, molto aperta. E poi invece c'è la parte appunto della rassegna vera e propria che inizia venerdì 13 settembre, con un storytelling, diciamo, che coinvolge gli abitanti del quartiere e poi si prosegue con musica, si prosegue con spettacoli e con incontri. Magari posso segnalare quelli di spettacoli serali, che sono i momenti appunto più dove noi ospitiamo anche artisti, diciamo, esterni, che comunque fanno anche loro un discorso che in qualche maniera incontra il quartiere. E allora venerdì sera abbiamo L'Uomo Tigre, Capire tutto in una notte, con Andrea Camerle e Guascone Teatro, che è un gruppo toscano. Lo spettacolo viene rappresentato per la prima volta a Roma e vabbè, è un momento di riflessione su quello che è crescere, no? La crescita, diventare adulti e anche anziani. Noi tra l'altro lavoriamo molto con il centro anziani del quartiere, che è sempre molto presente alle nostre manifestazioni, quindi questo spettacolo in qualche maniera è un omaggio a loro. Poi ci fa molto piacere ospitarlo Claudio Morici, il sabato sera alle 21:15 con un insieme di pezzi suoi, racconti da camera. Dico che abbiamo molto piacere ospitare Claudio Morici perché è già stato all'interno delle nostre rassegne di teatro a Teatro di Astoli, che tu ben conosci, teatro che si trova nella provincia di Roma, e Claudio ha avuto un alto gradimento, diciamo, da parte del nostro pubblico e dei nostri abbonati, quindi pensiamo che sia una bella cosa poterlo presentare anche qua in questa rassegna. E anche lui farà qualche cosa che in qualche maniera, cioè sono suoi pezzi, ma che lui rielabora in forma originale per questa edizione di Sguardi Oltre. E poi abbiamo alle 18 invece di domenica Ferdinando Vaselli, Ti chiavi teatro, che presenta Sopra il cielo di San Basilio. Già dal titolo si capisce che in qualche maniera anche questo spettacolo incontra il quartiere. È uno spettacolo che ha vinto il premio scenario, è uno spettacolo che va bene per le famiglie perché racconta la storia di un ragazzo di San Basilio, una storia di borgata, di periferie, di integrazione, e da questo spettacolo Ferdinando ha anche tratto un libro, e questo libro verrà presentato, questa pubblicazione verrà presentata all'interno sempre di Sguardi Oltre. Poi abbiamo i momenti musicali con i 12 suoni, poi abbiamo una bella festa finale, come sempre. A noi piace chiudere con le danze. ma non sono dei DJ set, sono veramente momenti quasi che si avvicinano un po' di più alla danza campagnola, ecco, ai momenti così festaioli di una volta, per cui abbiamo un DJ che però lavora con musiche, diciamo, un tan-tan, ecco. E questa grande festa si svolgerà alle 21, gli abbiamo dato un titolo, si chiama Dancing in the Park, perché ci piace essere così un po' americani, no? E il DJ set è a cura di Ciccio Di Mario. Questo è il momento conclusivo dove di solito tiriamo le somme della manifestazione, ma soprattutto stiamo insieme alla gente, si ride, si balla, si mangia. Ecco, questo è un po' il programma, ovviamente per grandi linee, perché poi ci sono anche altre cose, ma il tempo immagino che stringa, quindi non mi dilungo. In ogni caso lo si può trovare sul sito di Percorsi Accidentali, che è l'associazione titolare di questa rassegna, e quindi si può andare a guardare sul sito, anche su Facebook. Il sito è www.percorsiaccidentali, scritto tutto insieme.it. Posso dare anche dei numeri di telefono, che sono 331-8254-599, 333-2014272. Ricordiamo l'ottava edizione di Sguardi Oltre, rassegna multidisciplinare per la cura dell'anima. A Roma, Sette Camini, dal 9 al 15 settembre 2019, un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sapio. Un abbraccio. Aspetta, diamo anche un indirizzo, perché per i laboratori siamo alla scuola Rubinstein, che è una scuola che si trova a Sette Camini ed è facile da individuare perché basta chiedere scuola Rubinstein e tutti vi dicono dov'è, ma soprattutto dove sono i momenti di spettacolo, sono a Parco Insieme, che è a via di Casal Bianco, non c'è il numero civico, ma lo si trova anche quello con estrema facilità. Gloria, un abbraccio e a presto. Grazie mille e a presto, un saluto a tutti.